senza il suono nella testa che va in quello che non c'è. Eri da sola giù in città, e tra le mie lenzuola in libertà di girare con la favola distorta di uno. Cercandoci distratti abbiamo visto che ancora qui non c'è. Un altro modo per amarci così tanto senza un perché. Sarebbe bello viverti così. Sarebbe migliore averti qui, senza il suono nella testa che disturba quello che non c'è.